più importante della vita, un cammino. Amore mi hai cambiato, e nella tua parola io ho trovato le cose belle che soltanto tu mi puoi dare. Il bene e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni, perché tutte nuove, un canto nuovo c'è in me. Sì, Gesù Cristo, la mia vita ha cambiato. Vedo le cose tutte nuove. Jesucristo.